Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 28 marzo 2015. Filiera del vino certificata. Lo smartphone legge la storia di ogni bottiglia. Finora il QR code, il codice leggibile dagli smartphone che dà accesso a informazioni multimediali su ogni oggetto, per i vini era stato usato soprattutto per raccontarne le caratteristiche organolettiche, oppure magari la storia del produttore o del vitigno, le caratteristiche dell'annata o del terroir. Ora invece il codice QR sarà una sorta di certificazione di qualità accessibile a tutti. Basterà fotografare o riprendere il codice con un normale smartphone per conoscere tutti i passaggi della produzione, dalla potatura al trattamento con agrofarmaci, fino ai procedimenti di imbottigliamento. Trasparenza assoluta, grazie alla tecnologia, sempre più diffusa anche tra i nostri filari più antichi. Fin qui la notizia del 28 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto di un codice fruibile dagli smartphone per leggere tutti i passaggi della storia di un vino nelle parole di Paolo Balsari, docente del Dipartimento dei AFA di Agraria dell'Università di Torino. Anche in un discorso di salvaguardia ambientale, di certificazione della produzione, è chiaro che l'elettronica ci può dare un aiuto, insomma. Il potere, sia per una questione di capacità di dimostrare di aver fatto una produzione rispetto dell'ambiente, il potere, dicevo, dimostrare quello che si è fatto in campo, in termini di operazione, cioè dove è avvenuta la distribuzione, quando è stata fatta la distribuzione del prodotto fitoiatrico, in che dosi, con che condizioni ambientali, con quale rispetto delle aree sensibili, corsi d'acqua, pozzi, eccetera, eccetera, è una cosa importante. Ma è una cosa importante anche poter avere un quadro complessivo di tutte le attività svolte. Noi siamo molto vicini a riuscire ad avere sull'etichetta del nostro vino, che viene servito in tavola al ristorante, un codice a barra, un codice di quelli che oggi sono utilizzabili da un normale smartphone, nel quale io posso avere tutta la storia del vino, da quando è stato impiantato a tutte le operazioni che ha subito, quando, che tipo di trattamento, se ci sono stati o non ci sono stati, la raccolta come è stata fatta, che tipo di raccolta è stata ottenuta, l'invecchiamento, eccetera, eccetera. Allora, anche in questo senso, l'elettronica, quindi avere macchine che mi permettono durante il lavoro di acquisire una serie di informazioni e di georeferenziarle, è estremamente importante. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.